Io riscosso va su un fatto viecciuri tanto tempo addietro, e io vi dicisse, u vesperi cancuncia di duomo, fu ciù bedura mo vita. Mamma caro ciullario, sono persuasa che mettissimo posto a vostra tazza e dicissimo, beh, come può essere? Fu ciù bedo o ciullario? O è una cosa o è un'altra? Solitamente arrivesse di mia stessa, concordando con Vavice, ma la verità è che o vesperi in cui io vitti, fu nello stesso tempo o meglio e o peggio la movita. Ma vi ha passato un uomo a così bello, che magari fi tipisci che veniva le sue mani, aveva la parvenza di Ciauro.